Questa per me è andata da un impulso, così che mi è venuto, per dire non semplicemente le parole, ma un atto concreto rispetto a questo dramma che abbiamo vissuto, cioè sconvolto le coscienze. Da una parte questo è stato il primo pensiero, ma lo posso fare perché Riace da tanti anni che ha messo in atto una strategia così legata a queste aperture, perché siamo stati interessati da alcuni sbarchi e la popolazione locale ha avuto grande sensibilità di accogliere, non nei centri di accoglienza, ma all'interno della comunità. Delle comunità che per tanti anni ha vissuto il fenomeno dell'emigrazione, per cui il nostro paese, che contava tanti abitanti, adesso si era spopolato, e quindi questo ci ha consentito di rinascere grazie all'arrivo delle persone. Noi abbiamo vissuto in un modo del tutto normale, senza paure, senza apprensioni. Alla fine abbiamo fatto anche i nostri interessi. Viace, adesso ci sono circa 400 cittadini immigrati che provengono da almeno 30 nazionalità diverse, e invece di essere un problema è una cosa bellissima, straordinaria, perché dimostra come ci può essere una convivenza di persone che provengono da mondi diversi, che è un incontro di culture. Conviene più questo che tutto il resto, che è retorica, che è alla fine poi nasconde questo senso così di inumanità, perché come si può stare a ragionare sui problemi quando c'è la necessità di dire quello che possiamo fare rispetto a quello che sta accadendo, che è la morte, troppo spesso. Come già anticipava, questa scelta, diceva, ha fatto rinascere un po' il paese anche dal punto di vista sociale ed economico. In tutti i sensi. Questo paradigma che vuole che gli immigrati portino via il lavoro, portino via gli spazi, creano le problematiche, il degrado. Per Viaggio è stato esattamente l'opposto. Io non lo dico per un fatto teorico, ma questa è la realtà, è la rappresentazione di quello che oggi è Viaggio. Che rinasce, dove le persone lavorano nei vari programmi di accoglienza grazie alle persone che sono arrivate. Mano a mano è diventato tutto possibile. E non ci sono stati mai episodi di intolleranza, perché alla fine, quando c'è il prevalere di un minimo di sensibilità umana, di riconoscere anche in un modo spontaneo le differenze e addirittura poi l'opportunità che ne deriva, allora poi diventa tutto più facile. Di solito in campagne elettorali, insomma politicamente, il tema dell'immigrazione viene vissuto con paura e diciamo non porta voti. Lei è al terzo mandato, se non sbaglio, è stato anche definito il Gandhi dei nostri tempi. Ma guardate, io vi ringrazio molto per questa definizione, ma io mi ritengo semplicemente il sindaco di un piccolo comune che ha fatto prevalere il senso della normalità in tutto. Non ci vuole molto per avere quel minimo di sensibilità per l'accoglienza delle persone che stanno soffrendo per tante ragioni, e poi se da questo poi deriva anche il fatto che abbiamo fatto i nostri interessi, abbiamo fatto nascere la comunità, guardate, alla fine io mi ritengo uno che ha cercato anche di tutelare il proprio territorio. Ecco, ma c'è stato bisogno di spiegare questa scelta ai cittadini o è venuta da sé? Diciamo, questo è un processo graduale che è iniziato nel lontano 1998, quindi c'è stato tutto il tempo per metabolizzare questi arrivi, ma non c'è voluto nulla, perché l'atteggiamento delle persone del luogo, di questa Calabria più interna, più gli antropologi la definiscono la Calabria ulteriore, poco contaminata dagli atteggiamenti di un consumismo che spesso annulla anche i valori umani, ha già questo elemento così predisponente per riconoscere nell'altro non un problema, ma un qualcosa di interessante, di bello. Tutti gli esseri umani, anche le persone che uno non si aspetta, così nascondono sempre una propria bellezza, un tesoro.